usciamo fuori subito. Lascia sul letto girasoli e diamanti, tirati su quel foulard, saluta il pubblico, apri l'ombrella di illusioni e inganni, copri il tuo viso, sarà un inverno gelido. Non ho certezze ma speranze e sogni, prendi scusa se non verrò oggi con te. Ricordami quando il vento soffierà e tu rispondimi se il tuo cuore parlerà. Come il mare nei paesi caldi presto arriverà il futuro, da dove i giorni ridiventano spiagge voltati e sarò vicino. Facciamo piano, non destiamo sospetti, squarciamo il telo e poi giù un volo d'angelo. Non fa mai male ritornare gli stessi, seri succhiati all'indietro come un gambero. Non serve un gioco di parole e specchi, né abilità ed alchimia, trucchetto squallido. So chiudi gli occhi, avverrà la mia mano, ma al tuo risveglio io non sarò più lì con te. Perdonami se anche il buio esploderà, ma tu non perderti se il mio volto svanirà. Uno schiocco, un battito di ali, tutto apparirà lontano, ma quando gli occhi torneranno stelle, aprili e sarò vicino a te. Ripensami quando il ghiaccio scioglierà e tu aspettami dove il tempo giamperà, con un lento sfarfallio di luci l'onda spazzerà il deserto, dove i delfini sembrano rocce bianche voltati e sarò vicino a te.